Europa 24. E noi ripartiamo dai temi della migrazione. Un saluto da Gigi Donelli. Venerdì daremo avvio alla prima fase dei ricollocamenti di migranti che lasceranno l'Italia per essere trasferiti in altri paesi europei. Così l'annuncio poco fa del Ministero dell'Interno, Angelino Alfano. Il primo ricollocamento, spiegato, verrà da Ciampino, direzione Svezia. Intanto la Commissione Europea risponde attraverso Margherita Schinas all'articolo apparso questa mattina in prima pagina sul Times di Londra. Si parlava di un piano segreto d'espulsioni. Bene, la replica è: il nostro piano d'azione è così segreto che fa parte di un pacchetto di proposte che abbiamo pubblicato sul nostro sito il 9 settembre scorso. Intanto, via oggi alla fase 2 della missione europea nel Mediterraneo. Si focalizza nella lotta in mare agli scafisti. Al microfono di Sergio Nava, il capitano De Renzi Sonnino, portavoce appunto della missione, spiega quali saranno i maggiori cambiamenti e gli scopi della missione. Nella fase 2 potremo mettere più in pratica quello che abbiamo già osservato e rilevato durante la prima fase, che era raccolta di informazioni intelligence su come loro stanno operando. Nella fase 2 potremo andare a fermare, sequestrare, neutralizzare le imbarcazioni usate dai trafficanti di uomini. Questo avverrà in mare, nel Mediterraneo, fuori dalle acque libiche, quindi in acque internazionali? La fase 2 prevede un nostro impiego iniziale nelle acque internazionali, in accordo alle normative presenti nel contesto internazionale, sempre nella salvaguardia anche dei diritti umanitari dei nostri migranti, che ovviamente sono un nostro elemento da proteggere. Quali saranno anche le regole di ingaggio, soprattutto quando vi troverete di fronte a imbarcazioni dove ci sono sì scafisti e trafficanti, ma anche migranti? Quindi chiaramente la situazione diventa delicata. Le regole di ingaggio sono state anche approvate in ambito Consiglio d'Europa, sono regole di ingaggio che permettono innanzitutto la salvaguardia del nostro personale, ovviamente che è prioritario, e il rispetto anche delle norme internazionali che sono alla base del nostro operato. Ricordiamo anche quante navi avete impegnate all'interno di UNOFOR Med attualmente. Attualmente abbiamo 6 navi che sono ovviamente in questo momento impegnate nell'operazione. A breve se ne aggiungeranno delle altre per fare in modo di poter portare avanti la nostra seconda fase in acque internazionali con il massimo dell'efficacia. 6 navi, tra cui la portaerei Cavour. E in conclusione, e sullo stesso tema, la Commissione Europea ha inviato ieri la lettera di richiesta a chiarimenti al governo ungherese sulle leggi introdotte in materia di gestione delle domande d'asilo. La lettera di fatto è il primo passo per un'eventuale apertura della procedura di infrazione. Attendiamo una risposta in 2 settimane, poi discuteremo con il governo ungherese, ha precisato la portavoce dell'esecutivo, evitando commenti sui contenuti delle contestazioni mosse a Budapest. E per oggi è tutto sul fronte dell'Europa. Appuntamento come sempre domani intorno alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.